Euroreportage. I primi 15 giorni della presidenza italiana al timone dell'Europa, di Sergio Nava. Qui non c'è un'Italia che chiede scorciatoie. Qui c'è un'Italia che con coraggio e orgoglio offre la propria disponibilità per fare la propria parte. E c'è anche, lasciatemelo dire, una generazione nuova, che è la generazione Telemaco. Noi non vediamo il grande frutto dei nostri padri come un dono dato per sempre, ma come una conquista da rinnovare giorno dopo giorno. E allora l'invito di questo semestre europeo non è semplicemente a ragionare di questioni economiche. Il nostro destino è nel riscoprirsi eredi, nell'avere il diritto di chiamarci eredi, nel prendere la grande tradizione dalla quale noi veniamo e dire che assicureremo un domani a questa tradizione. Sceglie l'immagine della generazione Telemaco Matteo Renzi per inaugurare i 6 mesi che vedranno l'Italia al timone dell'Europa. Lo fa da Strasburgo, seconda capitale continentale, una capitale estremamente controversa per il carico di spese che comporta la sua navetta mensile con Bruxelles, ma a tutt'oggi sede di rappresentanza delle sessioni plenarie del Parlamento europeo. Buongiorno e bentrovati all'Euroreportage di Radio 24 sui primi 15 giorni del semestre di presidenza italiana. 15 giorni, lo spazio di un esordio segnati soprattutto da un dibattito a tratti aspro sull'interpretazione della flessibilità nei conti pubblici, spesso contrapposta al rigore del risanamento di bilancio. Vincerà la sua battaglia in Europa per più flessibilità e maggiori investimenti, Matteo Renzi. Buongiorno. Renzi arriva in ritardo mercoledì 2 luglio al Parlamento europeo. Cambia verso anche nel protocollo, va di fretta, sfugge ai giornalisti e si dirige subito all'incontro con gli eurodeputati italiani, che in realtà vede per una decina di minuti scarsi, prima di scappare alla photo opportunity con il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz. Alle 15 è in aula per un discorso che si rivelerà poco incentrato su obiettivi e priorità concrete. Renzi, infatti, preferisce volare alto. Noi siamo stati i primi a dire che vogliamo rispettare le regole e non chiediamo di cambiare le regole. Diciamo però che rispetta le regole chi si ricorda che abbiamo firmato tutti insieme, i nostri predecessori, un patto che si chiama patto di stabilità e di crescita. C'è la stabilità, ma c'è anche la crescita, e la richiesta di avere la crescita come elemento fondamentale della politica economica europea non la fa un paese, serve all'Europa, non serve all'Italia. Senza crescita l'Europa non ha futuro, non è un singolo paese avere un problema. Di quel discorso resterà soprattutto nella memoria collettiva lo scontro con il capogruppo dei popolari europei, il bavarese Manfred Weber, che attacca: i debiti non creano futuro, lo distruggono. Weber non fa mistero di non fidarsi dei governi socialisti, sulla base delle precedenti concessioni fatte al francese Hollande. La sera stessa, mentre Renzi illustra il semestre che verrà nel salotto televisivo di Bruno Vespa, l'Italia pubblica online, con un certo ritardo, le proprie priorità. Nel concreto, lavoro e crescita in primo piano, a seguire politica di asilo e migrazione e infine la politica estera dell'Unione, con la dimensione internazionale dell'Europa. 2 giorni dopo, Renzi presenta queste priorità nel tradizionale incontro di inizio presidenza con la Commissione europea. In primo piano, ancora la flessibilità. La flessibilità non è una richiesta dell'Italia. Serve all'Europa, non all'Italia. All'Italia serve il processo di riforme che abbiamo iniziato. Il rapporto che oggi c'è, nonostante le polemiche che ho letto sui giornali, il rapporto che oggi c'è con la cancelliera Merkel è per me un rapporto ottimo e ho molto apprezzato la presa di posizione del governo tedesco di queste ore. Lunedì 7 e martedì 8 luglio aprono la settimana che inaugura i vertici a guida italiana. A Venezia parte il Summit Digital Venice, dedicato all'innovazione, con la presenza dello stesso Renzi, mentre Milano si riveste della bandiera blu stellata in quanto capitale italiana del semestre. L'esordio è d'impatto con l'Eurogruppo e l'Ecofin, sotto la guida del ministro dell'Economia Padoan, che snocciola le priorità italiane nel settore economico. Abbiamo cominciato a discutere delle priorità italiane, come sapete riguardano crescita e occupazione, e si articolano su 3 pilastri, e cioè più integrazione, più mercato interno, riforme strutturali numero 2 e investimenti per la crescita numero 3. Su questo c'è stato un ampio scambio di vedute e una generale coincidenza e accordo sul fatto che queste devono essere le priorità. Naturalmente c'è anche divergenza di vedute su quale tipo di specifiche misure sono necessarie. L'Italia non sta lavorando a un piano di rientro del debito pubblico perché il debito pubblico italiano è assolutamente sostenibile, anzi in base agli indicatori elaborati dalla Commissione è uno dei più sostenibili dell'Unione Europea. Il primo Ecofin a guida italiana si chiude con una salomonica approvazione degli obiettivi della Presidenza mirati a sostenere crescita e occupazione in uno sforzo comune di riforma. Viene ribadita la necessità di fare il miglior uso della flessibilità già inclusa nel patto di stabilità e crescita. E l'impressione è che il derby flessibilità-rigore occuperà buona parte, se non addirittura l'intero semestre italiano. A Milano intanto va in scena l'esordio del capoluogo lombardo, quale capitale italiana della Presidenza, trampolino di lancio necessario e imprescindibile in vista di Expo 2015 e il summit informale dei ministri della giustizia e affari interni a inaugurare la stagione europea di Milano. Nella prima giornata i ministri dell'interno, sotto la presidenza di Angelino Alfano, mettono in primo piano la questione immigrazione. Al di là dell'intesa di facciata, Italia e Commissione europea non sembrano però vederla allo stesso modo sul destino dell'operazione Mare Nostrum. Frontex is a small agency in the European Union. Frontex cannot today just take over Mare Nostrum. We don't have those means. La commissaria agli interni Cecilia Malmström ammette che l'agenzia europea Frontex non ha il budget per rilevare Mare Nostrum, così come sostenuto o auspicato da Alfano, il quale a Radio 24 commenta così l'esito del summit. Noi abbiamo solo ricevuto complimenti oggi per un'azione straordinaria che abbiamo fatto di salvataggio delle vite in mare. Noi abbiamo pagato con dei lutti altissimi la questione della migrazione, abbiamo fatto presente che Mare Nostrum è un'operazione che è a tempo e che l'Italia ha una grande capacità di accoglienza, ma non può accogliere tutti, che quindi c'è un problema di cooperazione da parte di tutti gli stati nel presidio della frontiera del Mediterraneo e di accoglienza di coloro i quali vorrebbero andare in altri paesi diversi da quelli di primo ingresso. L'Italia farà come sempre propri gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali. Al tempo stesso abbiamo chiesto e ottenuto il contributo di tutti ad un'operazione sul Mediterraneo. L'ho già detto, lo ripeto, è un elemento di grande soddisfazione, c'è disponibilità da parte di tutti i paesi a contribuire lì sul Mediterraneo, per cui non c'è nessuna ipotesi o rischio di procedura di infrazione su questo argomento. Fa testo, per quello che ci riguarda, il documento conclusivo del Consiglio dei Capi di Stato e di Governo, dove con chiarezza è venuto fuori un tema anch'esso positivo per noi, che è quello del riconoscimento da parte di tutti della necessità di uno sforzo sul Mediterraneo da parte di Frontex. Sarà il programma della Commissione, lo ha dimostrato ancora oggi, benché facente parte della Commissione Barroso, il commissario Malmström, e non vi è alcun dubbio che le cose che stanno venendo fuori qui oggi da Milano sono cose positive che non saranno poi successivamente contraddette. Il giorno dopo tocca al ministro della giustizia Andrea Orlando presiedere il vertice. Agenda più leggera, con protezione dei dati, procura europea e semplificazione burocratica in primo piano. Sul tema della riforma della giustizia italiana, all'interno del quadro più ampio delle riforme promesse dall'esecutivo Renzi all'Europa, Orlando risponde così, sempre a Radio 24. Ho spiegato quali siano gli obiettivi che sono già stati indicati all'opinione pubblica. Ne approfitto per dire che in questi giorni, mentre si preparava il vertice, abbiamo completato la pubblicazione delle proposte che riguardano la giustizia civile, che sono accessibili sul sito del Ministero della Giustizia, con delle schede sintetiche e poi con delle relazioni più articolate che sono quasi degli articolati di legge. Naturalmente, prima di passare agli articolati di legge, ritenevamo opportuno attendere anche le indicazioni che ci verranno dalla consultazione pubblica che abbiamo deciso di aprire. Abbiamo però sottolineato anche negli incontri bilaterali come riteniamo che soprattutto la riforma della giustizia civile, complessivamente la riforma della giustizia, ma quella civile in particolare, sia un tutt'uno con l'insieme di riforme strutturali che il nostro Paese deve realizzare per riacquisire competitività. Come spesso si ricorda, la lunghezza dei procedimenti civili, la incertezza delle controversie tra privati nel nostro Paese è una delle cause di difficoltà per le imprese ed è anche una delle cause di diminuzione degli investimenti stranieri nel nostro paese. Tra settembre e ottobre l'agenda della presidenza italiana si infittirà con le riunioni dei ministri degli esteri e dell'economia a Milano, prima del summit Europa-Asia, sempre nel capoluogo lombardo. A ottobre e dicembre a Bruxelles i vertici che definiranno il successo o il fallimento dei 6 mesi con Roma alla guida dell'Europa. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.